Radio 24 e Salone del Libro 2012 presentano Piccolo Mondo Antico. Apre oggi a Torino il Salone del Libro 2012, a cui anche Radio 24 partecipa, con 5 giorni di diretta dagli studi del Lingotto. Il tema guida di questa edizione è la tecnologia, con tutti i cambiamenti che ogni suo avanzare provoca, anche nella cultura e nella vita delle persone. Con Piccolo Mondo Antico raccontiamo questi cambiamenti, dallo scrivere una lettera alla mail, dall'ascoltare un 33 giri all'MP3, perché anche se non si può dire che il mondo sia cambiato negli ultimi 25 anni, niente è più uguale ad allora. Fotografo, fotografo, dov'è il fotografo? Comandi, comandi! La data di nascita della fotografia è fissata al 1939, quando Monsieur Daguerre rese pubblica la sua nuova invenzione, chiamata daguerrotipo. Si trattava di una lastra che, esposta per un certo periodo di fronte a un oggetto e poi adeguatamente trattata, riproduceva l'immagine dell'oggetto stesso con grande fedeltà. Il successo di questa nuova tecnologia fu tale che alcuni predissero l'imminente morte della pittura a favore della nuova arte fotografica. La fotografia si diffuse rapidamente con la dignità di un'arte, o almeno di una tecnica. Dal fotografo si andava per farsi fare un ritratto fotografico e le fotografie rimasero un oggetto costoso, raro e in bianco e nero per molti decenni. Lo ricorda anche il cantautore Francesco Guccini nel suo ultimo libro, Dizionario delle cose perdute. C'era questa oscena abitudine di, come posso dire, di pettinare i bambini con questo ricciolone in testa, sembrava un cannolo, e i bambini poi venivano fotografati, di solito su pelli di animale, sì, o in studi fotografici ovviamente, perché allora si andava, adesso i telefonini fotografano da tutte le parti in tutti, sì, i momenti. Ma perché la foto era una. Non era una di solito, sì. Con gli anni 70 i ricordi diventano a colori. Non solo le fotografie, ma anche la televisione, il packaging degli oggetti più vivace, i vestiti dei teenagers. L'arcobaleno diventa il simbolo di una generazione e sulle minigonne compaiono colori sgargianti. Le macchine fotografiche diventano economicamente abbordabili e il mercato si allarga ulteriormente. Lo studio fotografico perde gradualmente la funzione di sala di posa per diventare un negozio di apparecchiature e accessori. Ormai la tecnologia fotografica è solida e ben sviluppata. Bisogna badare anche a pellicola e stampa. Per foto incredibili, usate la formula Kodak. Pellicola e carta. Giri, giri, giri! Girami in Kodak! Kodak! Basta chiederlo! Gli anni Ottanta segnano un nuovo cambiamento. Nelle strade, ma soprattutto nei centri commerciali, che proprio allora iniziavano a prendere piede anche in Italia, compare una scritta che prima non c'era. Sviluppo e stampa in un'ora. Ma c'è anche un modo per evitare di andare dal fotografo. Momenti Polaroid. Scopri la magia dei momenti Polaroid. Scatta, guarda e la festa è ancora più bella. Oggi anche la fotografia è digitale. Le pellicole sono scomparse perché le foto vengono memorizzate come dati. La stampa è in declino perché le immagini sono guardate a monitor o proiettate, gli studi fotografici in diminuzione perché ognuno può modificare in casa le immagini con software molto potenti. In più, dal 2001, anche i telefoni cellulari scattano fotografie sempre più belle e di qualità. La nuova frontiera degli studi fotografici è la multimedialità e il 3D. Ottenere un oggetto tridimensionale partendo da una normale fotografia. Che la paura del XXI secolo sia che la fotografia ucciderà non la pittura, ma la scultura? Piccolo Mondo Antico è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.